5D. Ascolta e rispondi. Avete corretto gli esercizi? Sì, li abbiamo corretti. Avete avvertito gli ospiti? Sì, li abbiamo avvertiti. Avete assaggiato i dolci? Sì, li abbiamo assaggiati. Avete concluso gli studi? Sì, li abbiamo conclusi. Avete svegliato i bambini? Sì, li abbiamo svegliati. Avete sostenuto gli esami? Sì, li abbiamo sostenuti.